te. È un mese che non scrivo una rima. A me non m'era mai successo prima. Metto un'altra cima dentro la cartina e faccio a cazzotti con la mia autostima. È la vita che mi porta qua dove non c'è più niente da dire, dove è impossibile trovare la sorgente e risalire. E trovami uno che sta al col center e mi sa dire che non è disposto a stare senza niente pur di partire. E lasciare qua tutto il nero che ci sta per volare via con la verità che ti porti sulla schiena anche quando lo sai bene che non lo devi fa. Non la merda che mi insegue in tutti i posti ma non cerco più l'indennità. Voglio fare rime fino a quando tutti non sapranno più la mia identità. Perché ha una voce che ridi di più che ha una faccia e una croce. L'ho detto in più di una traccia. Ma so che una canzone se è fatta col cuore trasforma in sorriso ogni giornata. C'è fanculo, anche se ci provi non mi arrendo. Il microfono al muro, sì, io non lo appendo. E ogni tuo consiglio, sì, io non lo apprendo. Te non chiudi le rime, sì, io le sto aprendo. Così ci entri dentro e la smetti di dire cazzate. Tipo non c'è alcun sentimento quando piango in preda al risentimento. Mentre tu scrivi storytelling inventati di divertimento. C'ho la testa che esplode, le vene alle tempie. Svuoto il bicchiere ma l'orgoglio non si riempie. E mi ritrovo sudato nella stanza di sempre. Combatto ma la sua mancanza si sente. Mi serve fumare e stacco i fratelli. Se no vado in crisi e mi strappo i capelli. E spingo sui tasti, rossi anche quelli. Perché il sangue mi esce dai polpastrelli. La vita qua è una merda e per rendere la meno amara. Giro con quattro canne accese insieme a secco dentro la gran vitara. E c'è poco da fa se una guardia me spara. Tanto qua lo stato le pallottole te le regala. Io fumo un bengala e penso ogni stronzo che in gara. Che la vita se la prepara. Ho mille allucinazioni ma non ce n'è una chiara. Sto tre notti di seguito che sogno una bara. Me sveglio la notte col colpo di frusta. Sento alla porta come un morto che bussa. Per questo la mia situazione è molto discussa. E per questo poi mi trovi stesso morto a Trilussa. La mia testa si tuffa dentro i problemi più osceni per poi rimettersi in cuffia. Quello che vi consiglio, frate, è correre via, sì, correre via.